La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme amici, ben ritrovati, un saluto da Franco D'Assisti, qui all'ora settimanale di cinema di Radio 24, come ogni weekend per raccontarvi le novità in sala e anche quel che di meglio c'è da vedere a casa, sempre con gli occhi puntati al grande cinema. È una settimana non intensissima come numero di uscite, ancor meno forse come numero di uscite interessanti, però un grandissimo film, uno dei più commoventi ed emozionanti dell'anno, arriva proprio in questo fine settimana ed è Pina in 3D di Wim Wenders. E poi tanto cinema italiano, ancora una volta tanta commedia. Avremo fra poco ospiti Bigio e Mandelli, ovvero la coppia dei soliti idioti che dalla TV, dal successo di Internet, si trasferisce sul grande schermo. Prima di sentire i contenuti della trasmissione, però, nei nostri tradizionali titoli di testa, voglio introdurvi un nuovo, ulteriore gioco che non, diciamo così, interferisce, non sostituisce quello tradizionale, il nostro DVD game, ma che invece è aggiuntivo e per qualche settimana ci terrà compagnia. Perché? Perché Radio 24 e ovviamente anche La Rosa Purpurea è partner, media partner di questa straordinaria mostra che sta per arrivare a Milano, al PAC, al Padiglione di Arte Contemporanea, una mostra che porta, e lo meritano davvero, porta in scena tutto quello che è il mondo della grande magia della Pixar. La Pixar è la casa che ha rivoluzionato per sempre il mondo dell'animazione, i suoi film tridimensionali prima ancora di avere gli occhiali in computer animation sono diventati dei cult. I suoi personaggi sono personaggi ormai indimenticabili, da Nemo a Remy, da Woody il cowboy ai mostri di Monsters & Co, a Wall-E, eccetera eccetera eccetera. Ebbene, tutto questo dopo 25 anni di storia della Pixar, perché il tempo passa e anche la Pixar ha compiuto un quarto di secolo, diventerà una grande mostra a Milano al PAC dal 23 novembre al 1 febbraio. Sarà uno degli eventi culturali della fine dell'anno e noi come Radio 24 siamo appunto media partner. La trasmissione La Rosa Purpurea vi regalerà ogni settimana tre coppie di biglietti, cioè tre biglietti per due persone ciascuno, per poter andare a visitare questa mostra che sarà davvero straordinaria e non si limiterà ovviamente a far vedere quello che già abbiamo visto al cinema, ma aggiungerà sculture, bozzetti, disegni, tutto quello che è la preparazione anche di questi straordinari personaggi. Allora, come faremo a darvi questi biglietti per la mostra? Ebbene, vi faremo ascoltare una clip di un film Pixar da oggi alle prossime settimane in apertura di trasmissione. Il nostro indirizzo di posta è sempre la rosa purpurea @radio24.it. Dovete dirci semplicemente di che film si tratta. Sentiamo. Gradisce un po' di tè, signora Nesbit? Buzz. È stata molto gentile a venire, anche se l'abbiamo invitata all'ultimo momento. Che bel cappellino ha, signora Nesbit. Le sta d'incanto. Anna! Anna! Mamma! Vi prego di scusarmi, signore, torno subito. Allora, di che film si tratta? Di che film Pixar si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it per avere la possibilità di ricevere dei biglietti, tre coppie di biglietti per ogni puntata, per andare a visitare dal 23 novembre al PAC la mostra sui 25 anni della Pixar. E adesso, titoli di testa. La terza dimensione della danza. Il Tanztheater di Pina Bausch balla sul grande schermo nel nuovo capolavoro di Wim Wenders, Pina. Un omaggio alla coreografa che ha rivoluzionato la danza in 3D. A Zonzo per la Napoli degli anni 70, credendosi Superman. È quel che accade a uno dei protagonisti di La criptonite nella borsa, film d'esordio alla regia dello scrittore Ivan Cotroneo. Dalla TV al cinema, passando da Internet, il fenomeno dei soliti idioti sbarca sul grande schermo, con la saga di Ruggero Desceglie e del figlio Gianluca alle prese con un matrimonio che non sa da fare. Ospiti della Rosa Purpurea, i protagonisti Bigio e Mandelli. Essere figlio di Audrey Hepburn. Luca Dotti racconta il rapporto con sua madre, la diva di Colazione da Tiffany, in occasione della mostra Audrey a Roma. Fra foto e costumi, un percorso lungo 30 anni nella Roma della dolce vita. E allora cominciamo subito con le atmosfere napoletane anni 70 e con il cinema italiano, una famiglia un po' scombinata protagonista della criptonite nella borsa, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Fermatevi, passanti! Sento le vibrazioni. Tu tieni la criptonite dentro alla borsa. Mio marito mi tradisce. Questa è una cosa molto grave per lei? È certo che è grave. Se ne vanno praticamente nello stesso giorno le due grandi certezze della vita di Peppino Sansone, bimbo di 9 anni nella Napoli degli anni 70. Il cugino stralunato, che crede di essere Superman, finisce sotto un autobus. La mamma, Valeria Golino, cade in depressione dopo aver scoperto il tradimento del marito, Luca Zingaretti. Il padre lavora, la mamma sta sempre dentro al letto. Ma allora scusate, questo bambino a chi lo diamo? Io non ce lo posso badare perché io studio. Però Titina e Salvatore non tengono che fa. Eccoli Titina e Salvatore, Cristiana Capotondi e Libero De Rienzo, gli zii moderni che introdurranno Peppino alle meraviglie dei 70, dai pantaloni a zampa d'elefante al femminismo, dalla libertà sessuale all'LSD. Come si sopravvive a parenti sgarruppati? Ci si affida alla fantasia e si fa tornare in vita il supereroe di famiglia. Io non è che posso correre sempre appresso a te. Allora anche questa missione è compiuta. Adesso vado. C'ho un appuntamento con Thor. Are you ready, Boots? Start walking. Lo scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo debutta alla regia, portando sul grande schermo un suo romanzo. Lo sguardo è quello di un bambino con gli occhiali quando non li portava nessuno. Un diverso, che fa il suo percorso di formazione con una guida surreale, per restare un esemplare unico. Bello nelle immagini e nei costumi 70s, ottimo negli interpreti e pulito nella sceneggiatura, è certamente un buon esordio, scorre lieve e fa pensare sorridendo. Luca, io ti guardo e vedo il capolinea della società. Vedo il genere umano buttato in recesso e tirato all'acqua. Te sta bene in fisico che pare una scatola da scarpe che braccia. Questa è colpa di Facebook, cazzo. E poi che fa ancora con questo pigiama da malato terminale? Vestiti, dai, cazzo! Che me ce devo sposare io con qua busta di piscio della ragazza tua? Fai una cosa, Gianluca, mangia del cereale che papà va a fare colazione al bar. Ma sei con la generazione che se mangia i cereali e caca secatura. Io li riempiva e mangiavo i mattoni e caca ci metto al vato. Ma proprio rovinato la giornata, ma proprio una giornata di merda, ma proprio. E allora li avrete già riconosciuti, almeno i più giovani, perché sono davvero degli idoli dei giovanissimi. Biggio e Mandelli, I soliti idioti, arriva al cinema. Una sketch comedy, come viene definita in gergo, fatta di piccole pillole, di personaggi rituali, ricorrenti. E proprio quei personaggi sono stati vagliati e poi scelti, scremati per diventare un film. Si è deciso di stare sulla storia del padre e del figlio, Ruggero e Gianluca De Ceglie, lui burino, arricchito, volgare, bruttissimo e donnaiolo, il figlio dolce, sensibile, allevatore di bruchi, insomma quanto di più etereo esista. Chiaramente la coppia con tutte queste contraddizioni diventa elemento di comicità, il film diventa un road movie, la storia è presto detta, Gianluca si deve sposare, il padre non vuole perché ritiene non all'altezza esteticamente la sua promessa sposa, e allora lo prende, praticamente lo rapisce da Milano, lo porta a Roma in un viaggio che è fatto in gran parte in un'ambulanza trafugata, per scommessa, per fargli sedurre una bellissima donna da copertina, la Sorcicova, che non è altro che la testimonial della pubblicità di Intimo di Smutandissima. Avete capito che non è che le volgarità manchino, anzi si abbonda a mani basse, ma chi conosce la serie televisiva sa perfettamente a cosa va incontro, e sappiamo anche probabilmente a quale successo andrà incontro il film, considerando l'esito straordinario che hanno avuto queste clip, soprattutto su YouTube, su internet, hanno avuto un giro e un mondo che si è creato, uno zoccolo duro che è sicuramente pronto. Da questo a dire che il film sia riuscito ce ne passa, i due sono molto bravi, ma forse alla sceneggiatura manca un po' di tempo comico, gli attori, la galleria è interessante, ma forse stare sulla coppia padre figlio sarebbe stato meglio, invece di inserire, incastonare altre cose coppie che sono state portate a successo dai due come invitati di questo matrimonio, ma sono coppie delle quali si poteva fare tranquillamente a meno, e forse il respiro del film alla lunga nel rapporto padre-figlio un pochino stanca, proprio perché non è detto che ciò che si adatta ai 3 minuti della televisione si adatti per forza anche ai 90-95 minuti di un film. Detto questo, non è un film privo di momenti di comicità, tutt'altro, si ride anche amaro, la galleria di personaggi è cinica, ovviamente, volutamente cinica, ma non, proprio per questo probabilmente abbastanza riuscita, con qualche difetto, come dicevamo, nella sgrezzatura del prodotto cinematografico in se stesso. Noi abbiamo incontrato Biggio e Mandelli a margine della presentazione milanese del film, e siccome vi avevamo già proposto una loro intervista quando stavano preparando il film quest'estate nelle puntate estive della Rosa Purpurea, e fu un'intervista abbastanza particolare perché i due sono abbastanza particolari, sentiamo cosa ne è venuto fuori. Memore dell'intervista di Riccione, adesso metto su il giubbotto antiproiettile, parto. Allora ragazzi, questi soliti idioti alla fine sono quello che vi aspettavate, cioè questo salto nel cinema, insomma, rivisto il vostro film, è quello che volevate fare? Noi siamo pignolissimi, perciò c'è sempre qualcosa che non ci va bene fino alla fine, però è quello, il film che volevamo, e perciò siamo molto contenti. E poi oggi abbiamo fatto questa proiezione con la stampa, prima volta che lo vedevamo finito con Francesco insieme ad altra gente, ho visto che insomma la gente rideva, è stata una bella emozione, siamo molto contenti. Si parte sicuramente dallo zoccolo duro del vostro pubblico televisivo e di internet, per conquistare anche qualcosa oltre questo pubblico, cioè è un film che può parlare anche a un pubblico più vasto, quello che diciamo va a vedere le commedie italiane? Beh sì, no, per forza. Mi hanno detto che il trailer andava dopo il film di Boldi e la gente rideva. Perciò vuol dire, se quelli che vanno a vedere Boldi, che è il popolo italiano classico, diciamo, ride al nostro trailer, forse lascia speranza anche per noi per fare un sacco di soldi. Con noi, chiaramente, ma beh, anche voi, dai. Per ora no. Quello che dovevamo prendere l'abbiamo preso, basta, finito. No, invece volevo chiedere a te un'altra cosa. Il tuo personaggio, no? De Ceglie padre, sì, sì. Nella sua ributtanza, sì. È però un personaggio nel quale c'è molto di, penso, di ognuno di noi, al di là di ognuno dei nostri padri, perché si sentiva in conferenza stampa dire no, ci si rivede, forse per una della mia età invece vedo quello che vorremmo fare molto spesso e che non abbiamo il coraggio di fare. C'è un personaggio che è totalmente anti-ipocrita, diciamo. Assolutamente, ma guarda che per me la chiave di quando sono vestito così è proprio quello, cioè dire quello che non si può dire, cioè dire sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato, dire esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere il modo di comportarsi di una persona civile. È veramente un gioco per contrasto, quindi se ti suonano il clacson tu lo devi mandare a fanculo lui, perché devi, cioè una delle robe più assurde è litigare per le macchine, per lui invece è una regola fondamentale, quindi il padre è veramente insomma un po' ogni tanto la liberazione degli istinti, no, primordiali veramente di una persona. Quindi sì, oltre probabilmente a un rapporto padre figlio, uno ci vede anche il fatto che c'è un matto, è veramente, sarà l'anzianità, sarà non so che cosa, però è veramente tutto quello che ti dicono che non puoi fare, e chiaramente probabilmente il fascino è quello lì, ecco. C'è tutte le regole al contrario, lui anche l'educazione la dà sempre al contrario, no? È quella la cosa divertente. No, e tra l'altro il figlio, che poi sei tu, rappresenta anche, a mio modo di vedere, anche questo un po', questa timidezza di una generazione che fatica a liberare anche quegli istinti, no? Come se, perché sa che è politicamente scorretto farlo e non lo fa, però tutto sommato che vorrebbe, ogni tanto vorrebbe esplodere. È la generazione di Facebook, è quella che su internet, in chat, si lascia andare così, quando è nella vita vera è un po' intimidito, non è più tanto abituato a vivere la vita vera, il giovane. E Gianluca è un po' così, è molto studioso, molto fanatico di internet, va su Facebook, però poi quando è nella vita vera ha bisogno di qualcuno e dice dai cazzo, capito? Ecco, allora un'ultima cosa per tutti e due, dovete dirmi qualcosa di piccante. Avete lavorato con una delle donne più belle del mondo. È lavoro, io non ho provato nessuna emozione neanche nel baciare, cioè è proprio lavoro, è come... Guarda, io ti dico, no, è vero che... No, scherzi a parte, io quando ci abbiamo lavorato ero contentissimo di averla intorno, eccetera eccetera, ma io mi sono veramente innamorato di lei quando l'ho vista al montaggio, cioè al cinema quella donna lì secondo me è qualcosa di eccezionale, e avendola vista poi nel montaggio, avendola vista nel film, mi ha proprio fatto innamorare, quindi l'effetto ha funzionato, almeno per quel che mi riguarda. Insomma, doveva essere una donna da sogno sullo schermo, e per me lo è stato, come se non l'avessi mai conosciuta. E allora, insomma, un saluto agli amici di Radio 24, agli amici di questa trasmissione, dai soliti idioti. Saluto agli amici di Radio 24 da Ruggero e... Saluto anch'io, papà. Gianluca, dai cazzo, saluta Radio 24, un saluto da Ruggero Di Celi e... Dico il mio nome, papà, papà. Anche questa volta siamo stati sopraffatti da Bigio e Mandelli per I soliti idioti, distribuzione piuttosto massiccia, oltre 500 sale in tutta Italia, insomma, ci si aspettano grossi risultati di pubblico da parte dei produttori e dei distributori. Vedremo come andrà la prossima settimana. Giochiamo insieme, è arrivato il momento di giocare, come sempre, con il nostro gioco tradizionale. Abbiamo fatto quello sulla Pixar all'inizio, adesso invece andiamo a giocare con i Blu-ray e sentiamo la prima traccia del film misterioso di oggi. Allora, che effetto fa essere professore? No, non chiamarmi così. Non puoi farti chiamare professore finché non hai un posto da insegnante. Lo so, ma ti si addice. Non dirlo. Di invece andiamo a bere qualcosa. Come sempre all'inizio siamo un po' più criptici. La rosa purpurea @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film, più tardi ci saranno ancora due tracce. E allora, parliamo di un altro film tra quelli che trovano la via della sala. Abbiamo detto settimana non di altissimo livello, tranne qualche punta. Di questo prodotto medio, diciamo così, fa parte un film che si intitola Il domani che verrà. Un film che prende le mosse da una storia di un gruppo manipolo di amici che si trovano sostanzialmente catapultati in una realtà totalmente imprevista e totalmente sconvolgente. Sentiamo la clip. Facciamo una gita prima di tornare a scuola. Risaliamo il fiume fino a dove non siamo mai arrivati prima. Ma che cos'è? Un beauty? Homer, sai almeno dove stiamo andando? C'è una radura più avanti. Rifacciamola. Torniamo qui, stesso posto. Stessa compagnia. Giusto. A noi. Sì. Salute. Siete! Non c'è segnale! Ma che succede? Boris Sollazzo, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ma che succede? Perché questa bella e allegra gita si trasforma in qualcosa di così drammatico? È un apocalisse locale, sostanzialmente, tratto da un libro omonimo di Marsden. È interessante perché sostanzialmente loro partono per due giorni e fanno questa sorta di campeggio molto carino, tipica esperienza giovanile, anche un po' giovanilistica cinematograficamente parlando. Peccato che quando tornano scoprono che i genitori non sono più a casa e che la città, e poi scopriranno la nazione, è stata invasa da dei non ben specificati orientali che hanno bisogno di spazio perché da loro l'hanno finito. Punto di partenza che può sembrare banale se si pensa a tutti i film apocalittici che abbiamo avuto, ma in fondo non così tanto, perché qui non è il mondo che va in sfracelli, è solo l'Australia. Film di genere molto solido, secondo me, a chi piace questo tipo di film si troverà molto soddisfatto. I ragazzi sono bravi, hanno delle belle facce, forse troppo belle come al solito in questi film, però ci si diverte e non è neanche così banale nelle sue conclusioni. E allora, un film che può andare anche a trovare un pubblico appunto post-adolescenziale, diciamo così, occupare un po' quella fascia lì. Boris, fra poco parleremo di Pina, il nuovo grande film di Wim Wenders. Ti è piaciuto, brevemente? Un meraviglioso capolavoro. Io ho avuto la fortuna di intervistarlo e lui ha detto: ci ho messo 25 anni ma sono soddisfatto. Io sono ben più che soddisfatto, devo dire. Terza parte della Rosa Purpurea, entriamo subito nelle atmosfere musicali magiche di Pina, il film per Bina Bausch in 3D firmato da Wim Wenders. E Era il 1985 quando Wim Wenders vide per la prima volta uno spettacolo di Pina Bausch, la più grande coreografa probabilmente della seconda parte del Novecento, quella che ha cambiato maggiormente la danza degli ultimi 50 anni. Il suo teatro danza aveva già sconvolto il mondo. Caffè Müller era lo spettacolo che appunto Wenders ebbe la possibilità di vedere a metà degli anni 80. Rimase stregato da quei 40 minuti di danza insieme ai suoi ballerini del teatro di Wuppertal, il Tanztheater di Wuppertal, e da lì cominciò un'amicizia, un contatto umano lungo oltre 20 anni. Tante volte Pina gli disse: Wim, perché non facciamo un film? Perché non facciamo un film insieme? E Wim gli rispondeva: mi piacerebbe molto, ma non saprei come farlo. Ebbene, questa cosa andò avanti molto, ma a un certo punto, qualche anno più tardi, molti anni più tardi, Wim Wenders vide un film in 3D degli U2 e fu quello che gli cambiò la prospettiva. Capì che questa tridimensionalità, questa tecnologia poteva dare un senso diverso a un film sulla danza di Pina Bausch. Nacque l'idea di fare questo film. Nacque nel 2008, si cominciò a concretizzare, ma poi arrivò la morte prematura di Pina Bausch. Tutto sembrava saltare, Wenders non voleva andare avanti in questa produzione. Furono i ballerini del Tanztheater a convincerlo a concludere quel lavoro e infatti il film è diventato Pina, un omaggio in 3D per Pina Bausch, più che su Pina Bausch. Ora, lungi da noi, non abbiamo le competenze, parlare di danza, certo è magica l'atmosfera che riesce a creare, il movimento che riesce a creare sul palcoscenico e con le sue coreografie Pina Bausch, però certo che qui c'è tanto, tantissimo cinema. Forse personalmente è la volta in cui ho visto usare meglio in 3D da quando questa tecnologia è ritornata prepotentemente a corroborare il cinema internazionale. Il plot di Wim Wenders è semplice: prende quattro spettacoli di quelli di Pina Bausch, fra i più famosi Caffè Müller, Le Sacre du Printemps, Volmont e Contact Off, e li mette in scena fra finte prove in studio, in teatro, e invece coreografie che si spendono dentro spazi straordinari, paesaggi bellissimi dove il gesto umano si sposa perfettamente con la natura che lo circonda, spazi che sono figli anche della grande capacità fotografica di Wim Wenders, spazi industriali abbandonati piuttosto che colline, città, e appunto quella Wuppertal che è stata la culla da cui il Tanztheater è potuto nascere, con la sua ferrovia monorotaia sopraelevata che la fa un po' da padrona nelle inquadrature di Wenders. Ne viene fuori un film vario, straordinario, intervallato dai ricordi di Pina Bausch da parte dei propri ballerini, perché il Tanztheater è stato una sorta di famiglia, ci si entrava, ci si stava a volte per 20-30 anni, addirittura ci sono dei figli di vecchi ballerini del Tanztheater che ancora ci ballano dentro. È un gruppo che ha avuto ovviamente da Pina Bausch tutto quello che può essere il riconoscimento, l'amore per il lavoro, per la propria professione, che può dare una grande pensatrice prima ancora che danzatrice, come lo è stata la coreografa tedesca. Il film è godibilissimo, che amiate la danza o no, è coloratissimo, musicalmente straordinario e vola via veramente in un attimo, un film che davvero non bisogna lasciarsi scappare. E allora andiamo a ascoltare le parole di Wim Wenders, che, come ha detto il nostro Boris Sollazzo, è stato a Roma proprio a presentare la prima di Pina in 3D, e Boris lo ha potuto incontrare e ci ha dato queste piccole pillole di un'intervista piuttosto lunga, che però ci danno anche il senso del lavoro che Wenders ha fatto su questo straordinario capolavoro e su questa straordinaria coreografa che è appunto Pina Bausch. Cosa ha rappresentato in tanti anni la figura di Pina Bausch e come l'ha ispirato per questo film? Quando Pina è entrata nella mia vita è stato uno shock. Prima non mi piaceva molto la danza. Avevo visto qualche balletto, ma ritenevo che fosse un'arte destinata ad altri. Poi, nell'estate del 1985, mi sono trovato a Venezia con la mia ragazza e abbiamo visto un poster che annunciava alla Fenice la retrospettiva di Pina Bausch. Lei decise che dovevamo andare a vederla, anche se io non volevo. Meno male che l'ha fatto, perché quella sera ha davvero cambiato la mia vita. dopo 5 minuti che ero entrato, pensando di vedere una cosa noiosa, mi sono sorpreso sulla sedia a piangere in modo incontrollato per l'emozione. Ho scoperto un nuovo linguaggio che non conoscevo assolutamente e che mi ha davvero rivoluzionato, come del resto Pina ha rivoluzionato anche il concetto stesso di arte. Da allora ho visto tutte le sue opere e nel corso del tempo siamo diventati amici. Pina Bausch sul grande schermo per Wim Wenders. Se credete in questa trasmissione e se credete nei nostri consigli, andatelo a vedere, è un'esperienza davvero straordinaria. Siamo arrivati ancora al nostro gioco, seconda finestra sul game, sentiamo la traccia. Abbiamo già fatto questa conversazione. Se metti le nostre testate in Turchia o in un altro posto così vicino alla Russia, provocherai una guerra. Una guerra nucleare. Di quale film si tratta? Volete provare a vincere il Blu-ray di questo film? La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo per dirci appunto il titolo. Fra poco avremo la terza e ultima possibilità. E parliamo adesso di una mostra che ci restituisce un pezzo importante di storia del cinema, perché ci racconta di una straordinaria diva e ci racconta anche di una città del cinema come Roma, e le mette insieme, trova questa liaison, questo contatto, che è un contatto molto sorprendente anche per chi di cinema si occupa, insomma, sapere, ricordare soprattutto e rivalutare il fatto che quasi 30 anni della vita di Audrey Hepburn, di una delle dive ancora più venerate, ancora più moderne, ancora più d'esempio e di modello quasi per una, anche per le più giovani, per le ragazze di oggi. Ebbene, tanti anni della vita di Audrey Hepburn sono passati a Roma. Sono passati a Roma perché è stata una scelta di vita, non è stata solo una scelta artistica, quella di stare nella capitale d'Italia. Roma diventa città d'adozione di Audrey Hepburn e adesso, proprio in concomitanza con i 50 anni di Colazione da Tiffany, del capolavoro più celebrato interpretato da Audrey Hepburn, arriva a questa mostra proprio a Roma, all'Ala Pacis, quindi in una location straordinaria, una mostra di oltre 100 scatti fotografici inediti che documentano e svelano e rivelano ancora molto della personalità di Audrey Hepburn nel suo privato, in questa sua parentesi romana. Noi ne vogliamo parlare con chi da una parte per ragioni familiari, dall'altra per ragioni organizzative questa mostra la sente in maniera particolare, ovvero Luca Dotti, che niente meno è che il figlio di Audrey Hepburn, che è in collegamento con noi. Buongiorno Luca. Buongiorno. Buongiorno. Allora, da dove partiamo? Partiamo dalla famiglia, perché è sempre abbastanza, come dire, curioso poter chiacchierare con il figlio di una grande diva, perché ci si chiede, ma come sarà stato vivere con una mamma così, che ancora oggi è un simbolo in tutto il mondo. Allora la domanda la rivolgo a lei. Com'era la mamma Audrey Hepburn? Beh, riprendendo un po' il suo discorso, è una cosa importante da ricordare, che mamma non era... Non veniva da Hollywood, mamma era europea, dunque metà inglese, metà olandese, e teneva moltissimo a queste, alle sue radici europee, e a Roma ha ritrovato una famiglia, perché attraverso questi scatti ritroviamo proprio tutto l'artigianato, la passione italiana che resero grande Hollywood. E per tornare nel privato, mamma era così, vedeva il suo lavoro come una questione di artigianato fatto insieme a delle squadre di persone fantastiche, e questo un po' viene fuori nella mostra. E anche a casa non, questo suo lavoro non prendeva una dimensione, diciamo, di glamour, e ce l'ha sempre raccontato come una bellissima fabbrica dei sogni. Ricordiamo che il truccatore che inventò il look di mamma, questi occhi da cerbiatto, era italiano, era il truccatore di Fellini, di Visconti. Perché per tutti quegli anni scelse l'Italia e scelse Roma? Roma le regalò il suo primo amore, le regalò il suo primo film, le regalò il suo primo Oscar, e attraverso Vacanze Romane e quell'immagine di lei in Vespa le regalò la possibilità di essere l'attrice e la persona che si tenevano insieme. La leggenda un po' vuole che il provino di Vacanze Romane andò malissimo, la produzione aveva già scelto, praticamente già scelto Elizabeth Taylor, che era giovanissima anche lei, ma di maggior fama di mamma, però la camera continuò a girare e un pezzo di intervista di Provino non previsto finì nelle mani del regista e questa spontaneità lo fece innamorare. Ciao! Non vi costringerò a sposarmi davvero, non abbiate quell'aria. Tante grazie. Ora non vi mostrate troppo felice. Una cosa di mezzo. Però anch'io so mentire bene, eh? Meglio di così non si può mentire. Mm-hmm. Grazie, molte grazie. Ah. Venite con me. Ecco la bocca della verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde. Che cosa orrenda. Su, avanti, provate. Vista invece dagli occhi di voi figli, questa diva in casa, cos'era? Cioè, per voi ogni tanto, insomma, sentivate di avere una madre un po' speciale, un po' particolare? Guardi, soprattutto dopo la sua morte, perché lì in prima persona abbiamo dovuto, ecco, rispondere a domande, interrogativi, eccetera. C'è sempre stata la curiosità di sapere se, ecco, una diva in casa facesse cose particolari, no? Al di fuori della norma, invece no, ma però attraverso questa mostra, che poi è anche un bellissimo libro edito da Mondadori, è stata una ricerca un po' per vedere, un po' per far la pace, no, con questo aspetto, un po' per vedere se c'era questa distanza. La gran sorpresa è stata che poi in fondo non c'era l'eleganza di mamma era qualcosa di più della scelta del vestito, della foto riuscita bene, era qualcosa che veniva da sé. E allora ricordiamo la mostra Audrey a Roma, esterno giorno, fino al 4 dicembre, quindi c'è parecchio tempo per visitarla al Museo della Rapacis. Grazie a Luca Dotti. Grazie a voi. Ed eccoci ancora insieme, la quarta parte della Rosa Purpurea, come sempre consacrata alle visioni domestiche, ai film da vedere in casa o da registrare o da vedere in Blu-ray e DVD, e quindi carrellata di proposte per una visione casalinga. Lo facciamo come sempre con gli amici di Film TV, con i quali cominciamo a spulciare un po' i palinsesti televisivi per quanto riguarda i film che saranno programmati la prossima settimana e scopriamo subito le carte con Giulio San Giorgio di Film TV, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio! Ciao Franco, ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Abbiamo cominciato subito con un super classico come Baciami Stupido. Esattamente, domenica su Rai Movie alle 22:40, Baciami Stupido, uno dei più spudorati capolavori di Billy Wilder, giocato tutto in un pomeriggio e in una notte sul filo dell'equivoco e dello scambio di persona. Un compositore gelosissimo, una moglie fedele ma troppo carina, un cantante confidenziale donnaiolo, una prostituta con un diamante finto nell'ombelico e tanta voglia di una vita per bene. Alla fine, inevitabilmente, per caso o per affetto, ognuno finisce nel letto sbagliato. Un film perfetto ed impietoso, con un irresistibile Dean Martin in un ruolo assolutamente autobiografico, ma non per questo meno laido. Magari ricordiamo l'appuntamento, domenica 6, Baciami Stupido, 22:40 Rai Movie. Stavo dicendo magari meno perfetto, ma molto affascinante invece il secondo film di cui parliamo, un film italiano che ha usato Torino e soprattutto il suo monumento principe, la Mole Antonelliana, come nessun altro aveva fatto nella storia. Parliamo di Dopo Mezzanotte. Esattamente, martedì su Iris alle 15:45, Dopo Mezzanotte, storia di Martino, guardiano notturno della Mole Antonelliana, che si innamora di Amanda, una commessa di un fast food. Il caso porta la ragazza a rifugiarsi nella Mole e lasciamo i tre puntini di sospensione per questa perla cinefila italiana, autoprodotta da Davide Ferrario, il regista, girato in alta definizione, un film che ha vinto moltissimi premi all'estero, un atto d'amore per il cinema, soprattutto quello di Buster Keaton, e per una città, appunto Torino, incorniciata di notte tra le luci d'artista che ogni anno sotto Natale la illuminano. E allora l'appuntamento per Dopo Mezzanotte, martedì 8 novembre, 15:45 su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio e gli amici di Film TV. Grazie Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora, abbandonati gli amici di Film TV, li ritroveremo la prossima settimana. Noi siamo alla terza e ultima traccia del film misterioso di oggi. Sentiamo. Quando l'umanità scoprirà chi siamo e cosa possiamo fare, ognuno di noi dovrà fare una scelta. Essere ridotto in schiavitù o assumere il comando. Scegliete liberamente, ma sappiate che se non sarete con noi, per definizione sarete contro di noi. E allora qui questo plurale, noi, chi siamo, eccetera, dovrebbe avervi definitivamente messo sulla strada di questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it per dirci di che film si tratta, e come sempre il più veloce e bravo del sabato e della domenica riceveranno poi a casa il Blu-ray di questo film. Lo avevamo fatto anche 7 giorni fa, come sempre, con questa pellicola. È ricaduta su di noi la difesa di Gerusalemme e noi abbiamo fatto i nostri preparativi al meglio delle nostre possibilità. Nessuno di noi ha tolto questa città ai musulmani. Era Le Crociate di Ridley Scott. I più bravi sono stati Denis Mondardo di Vicenza e Nicola Ferrara di Cirié, provincia di Torino. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film che ci svela il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questa prestigiosa edizione da parte di Medusa Film Home Entertainment, che propone in alta definizione la famosa Director's Cut, l'edizione solo per l'home video rimontata dal regista, al momento questo è l'unico Blu-ray al mondo a offrire il montaggio integrale che ingloba anche le due overture musicali a inizio e centro film. È di sicura eccellente qualità video, doppia traccia DTS alta risoluzione italiano-inglese, e ci sono diversi extra, tra l'altro già editati per la versione DVD, per approfondire l'epica lavorazione di questo film con vari dietro le quinte, interviste al regista e al cast. E allora, questo per quel che concerne Le Crociate, che era il game della scorsa settimana. Andiamo invece alle recensioni di questa settimana, di questo weekend, con un film che ci, come sempre, ci avvicina a un grandissimo e amatissimo autore come David Lynch. Lei è un musicista? Sì. Che strumento suona? Tenore. Sax tenore. Lei... No, non ho orecchio. Avete una videocamera? No. Fred le detesta. Preferisco ricordare le cose a modo mio. Si spieghi meglio. Come le ricordo io, non necessariamente come sono avvenute. Il musicista Fred e la compagna René iniziano a ricevere videocassette di riprese effettuate dentro la loro casa, prima immagini di locali vuoti, poi della coppia a letto intenta riposare, incapaci di immaginare motivo e mandante dei nastri. Dopo aver incontrato un inquietante individuo, Fred uccide René, condannato alla pena capitale e ben presto liberato quando la polizia realizza che in cella c'è un altro individuo, un meccanico, che non ha commesso alcun reato e che può così iniziare una nuova vita presto legata a misteriosi eventi. Cerebrale opera di culto con continui riferimenti alla psicanalisi, realizzata nel 1997 dal maestro David Lynch, storia di un omicida con personalità multiple e la folle realtà mostrata con gli occhi degli individui che albergano nella sua mente. Da Koch Media arriva il Blu-ray, la versione in alta definizione, la qualità è veramente notevole, ricordo c'è molta grana, ma insomma il film è così, è stato girato all'epoca, una doppia traccia DTS alta risoluzione italiano-inglese, come extra un backstage, ma molto interessante, un'intervista al regista del 1996. Invece di tutt'altre atmosfere, molto meno sospese, azione, thrilling, velocità, in Source Code. Alle 7.48 di questa mattina, ora standard centrale, è esplosa una bomba su un treno di pendolari fuori Chicago, uccidendo tutti i passeggeri. E quello è il treno su cui si è trovato. No, io sono qui, lei sta parlando con me, adesso. Su quel treno c'era un uomo che si chiamava Sean Fentress. Quell'uomo, a tutti gli effetti, ora è lei. Ogni secondo speso a dare spiegazioni mette a rischio altri civili innocenti. Pilota di elicotteri in Afghanistan, il capitano Stevens si risveglia dentro una misteriosa cabina. Dall'esterno gli comunicano che è lui il prescelto per rivivere gli ultimi 8 minuti di vita di uno dei passeggeri che si trovava su un treno esploso quello stesso giorno per un attentato dinamitardo. Disorientato, incapace di rendersi conto delle sue effettive condizioni di salute, sia fisiche che mentali, Stevens viene spinto a rivivere fino allo stremo quegli 8 minuti per indagare e scoprire il volto del criminale e aiutare le autorità a sventare un attacco terroristico nucleare. Tra fantascienza e metafisica, un thriller serrato da Duncan Jones, il regista del notevole Moon, da 01 Rai Cinema, arriva al DVD, soprattutto il Blu-ray, questo in particolare molto interessante, la qualità è notevole, c'è una doppia traccia DTS alta risoluzione italiano-inglese e una terza traccia in PCM con qualità praticamente CD, multicanale, sempre in italiano. Sono interessanti gli extra con varie interviste agli interpreti principali e al regista, ma su tutti sicuramente il B-roll con un dietro le quinte di 9 minuti sulla realizzazione. E questo era Source Code, grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto! E siamo arrivati in fondo alla nostra corsa, alla nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. L'appuntamento va alla prossima settimana, al prossimo weekend, come sempre il sabato alle 18 e la domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica, per giocare con i film Pixar e con i biglietti per la mostra Pixar di fine novembre qui a Milano e con tutte le novità al cinema. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.